incontrando all'inizio le squadre cosiddette grosse, vedi Inter e Milan, piene enormi, di enormi difficoltà interne e anche di organico, il Milan e il Napoli in piena salute ha avuto vita facile, ma anche perché in chiave tattica è molto più semplice da spiegare, perché queste squadre bene o male ti danno spazio, ti danno campo, non possono venire a giocare contro il Napoli e giocare chiuse per poi farti piccare contro e evitare a Napoli le qualità migliori, che sono quelle della velocità partendo da dietro, no? E gli danno spazio, e se tu dai spazio a Napoli è un suicidio, Sì. come dimostri il gol di Manchester, dove perde la palla in zona d'attacco, in zona di difesa, quelli del Manchester hanno trovato un'autostrada dove si è inserito e poi la palla al laterale. E questo è stata, se tu vai ad analizzare il secondo gol, il gol di Cavani è stata identica fotocopia, certo, no, di questi gol. Se tu poi dopo incontri delle squadre tipo il Parma, la stessa Fiorentina, si è chiusa molto bene, si è fatta picchiare e poi è ripartita, diventa difficile. Lì bisogna cambiare decisamente gioco durante la partita.